Radio XXX. Il viaggio non si ferma mai. I come porra, i come voglia, e ne come l'ultra, me un'altra volta. Ne poi come un treno espresso alla bocca, espresso di Paris, il viaggio di rotta. I come porra, i come voglia, e ne come l'ultra, me un'altra volta. Ne poi come un treno espresso alla bocca, espresso di Paris, il viaggio di rotta. Te la racconto in un semplice faccio prima. Manda la macchia, io chiamandola come in Cina. Io con Zaga e Bina e Fra con una cima. Le Pineapple Express partiamo e si va. Ascolto radio figa, la tripla X baby. Viaggi così non te li fai se non qui. Vedi che andiamo fuori dagli schemi dei vostri problemi. Smarranando in web, ascoltando Rocksteady. Bomboletta qui crazy, ascolta le puntate con i miei colleghi. Troppo lazy, bevo l'espresso, poi prendo l'espresso. Scusate, mi sono espresso male, male come sto messo, ma ascolto radio figa, la tripla X baby. Viaggi così non te li fai se non qui. Vedi, ho espresso tutti i miei desideri. Fumare per non prendersi male e non stare seri. I come porra, i come voglia, e ne come l'ultra, me un'altra volta. E poi come un treno espresso alla bocca, espresso di Paris, il viaggio di rotta. I come porra, i come voglia, e ne come l'ultra, me un'altra volta. E poi come un treno espresso alla bocca, espresso di Paris, il viaggio di rotta. Sono pesante, mille parole, 2000 concetti. Su tutti questi, forse due o tre li capiresti. Come vorrei, coi complessi che ho, no, non smetto di starmi a cambiare i sensi e i pensi. Eri di ieri, io mi ricordo sempre meno. Quello che resta lo leggo sui binari e passo col treno express. Tripla X regionale, ma in orario come Trenitalia, come Will e le dirette radio. Inventario strumentali e gli strumenti che vario. Ma ti pare che la porta è sempre uguale? No, caro, io non viaggio ridotto, viaggio ve l'ho dirotto. E mi han detto nella testa c'è qualcosa di rotto.